La raccolta firme parte il 6 aprile, ci saranno alcuni mesi per raccogliere un numero sufficiente di firme per indire il vero e proprio referendum. Il referendum è sull'esproprio delle case a Berlino, una discussione che si fa da moltissimi mesi, è iniziata già lo scorso anno, trova il sostegno tra le altre cose di due dei principali partiti che compongono attualmente il governo di Berlino, cioè la Linke e i Verdi si sono espressi a favore, l'SPD nel congresso che ha fatto sabato invece è stato molto più titubante, ha rimandato ogni decisione all'autunno, diciamo nel momento in cui partirà la seconda fase del referendum. Si tratta qui di espropriare le case alle società che possiedono più di 3.000 appartamenti. Berlino, come molte città tedesche, ha una grossa percentuale di case in affitto, tieni conto su 3 milioni e 600 abitanti che ha la città di Berlino, 1,9 milioni sono le case affittate, quindi sostanzialmente coprono il 70% della popolazione, almeno vive in affitto, e queste case sono possedute da grosse società, la più grossa la Deutsche Wohnen, che ne possiede circa 115.000 se non vado errata, con un aumento esponenziale degli affitti, perché a Berlino gli affitti sono aumentati moltissimo, continuano a aumentare, si arriva a cifre spropositate che non permettono poi a quel punto neanche di pagare l'affitto, su condizioni, tra le altre cose, delle abitazioni pessime, perché una delle strategie anche per riuscire a aumentare l'affitto è quello di non manutenere assolutamente le abitazioni finché te ne vai via per la disperazione sostanzialmente. Tipico vedere palazzi con completamente in rovina, con pochi abitanti dentro, la società aspetta che se ne vadano anche gli ultimi per poterlo ristrutturare e affittare a un prezzo maggiore. Contro questa cosa è partito appunto un lungo dibattito che ha coinvolto tutto il Senato di Berlino, ha coinvolto la popolazione, il 40% della popolazione è a favore della tenuta di un referendum e tra le altre cose questo referendum, almeno sulla carta, avrebbe la possibilità di riuscire. Quello che diciamo piace di meno forse è la parola che è stata usata, questo concetto di espropriazione, che un pochino nella Germania dell'Ovest fa tanto ex Repubblica Democratica di Germania, cioè la DDR. In realtà l'espropriazione è prevista proprio dalla legge fondamentale, l'articolo 15, che prevede che si possano espropriare per ragioni di necessità terreni e le case che qui sono costruite. Un problema che riguarda Berlino è il fatto che questo comunque prevede una compensazione economica a chi vengono espropriate le case, secondo le associazioni di settore immobiliare, quindi comprese anche queste grosse società che possiedono le case, il costo sarebbe intorno ai 25 miliardi, secondo i promotori dell'iniziativa sarebbe di circa 6-7 miliardi, in una città che però ha già un debito pubblico che è di 57 miliardi, quindi potrebbe venirne fuori un costo impossibile da sostenere per la città di Berlino. Su questo tema insiste a questo punto l'SPD, perché forse la soluzione per loro migliore sarebbe che questo dibattito e anche questa raccolta firme riesca a condurre invece una nuova legge per quello che riguarda il tetto da mettere agli affitti, un tetto che dovrebbe andare al massimo a 6-7 euro al metro quadro, attualmente è molto ma molto di più, e che quindi consentirebbe in qualche modo di garantire gli inquilini, garantirli tutti tra le altre cose, e evitare di irritare più di tanto le società immobiliari. Qui ci sono state tra le altre cose anche azioni molto mediaticamente forti delle società immobiliari, a partire dall'agenzia di rating Moody's, che ha detto abbassiamo il rating della città di Berlino perché non conviene più agli investitori. La Camera di Commercio ha fatto qualche giorno fa un proprio comunicato, ha fatto una riunione, una conferenza stampa in cui ha detto qui il 60% delle società che abbiamo interpellato se ne andrà via da Berlino perché Berlino rischia di diventare la città dell'esproprio. Quindi si ritorna proprio sul termine di questa parola qua, espropriare all'Ovest non piace come parola. L'iniziativa comunque partirà, ci sono tre fasi di questa, nella prima è necessario raccogliere 20.000 firme e questo inizia il 6 aprile, ci sono 6 mesi di tempo, poi in autunno si provvederà alla vera e propria raccolta firme e qui tutti i partiti saranno chiamati ad esprimersi, se si raggiungono, credo che siano 175.000 firme, ma su questo non sono molto, molto sicura che la cifra sia questa, si dà vita al vero e proprio referendum che a quel punto potrebbe diventare vincolante per la città. In Europa molte città sono state comunque toccate da questa tematica, dovuta anche all'ingresso delle nuove piattaforme del web che facilitano questa compravendita, diciamo, e che quindi si sono trovate a dover risolvere questo problema legato anche alla gentrificazione dei luoghi e quindi l'abbandono degli antichi abitanti, diciamo, di questi stessi posti. Quindi ti volevo chiedere se anche a Berlino c'è riproposta questa problematica? Guarda, Airbnb secondo me ha contribuito in modo relativo, perché come ti dicevo prima, la grossa percentuale di gente in affitto rispetto a quello che succede in altri paesi d'Europa, io penso appunto all'Italia, dove comunque proprietari di case, singoli proprietari di case sono tantissime. Qui invece si parla di una città che vive per lo più di grosse società immobiliari. Diventa più difficile fare Airbnb anche perché è obbligo il consenso del proprietario di casa e questo non viene dato con molta facilità. Poi certo, se vedere Airbnb Berlino troverai che sono tantissime le case, ma non è quello in realtà che ha inciso sull'aumento dei prezzi, perché la grossa società immobiliare non ha convenienza a fare il lavoro di Airbnb, che è un lavoro che comunque prevede un sacco di anche di dispendio di energie, se vuoi, insomma sono poche le società che fanno questo lavoro, questo lo fanno più i singoli proprietari che agendo direttamente sul proprio appartamento ne hanno un ricavo maggiore. Io non credo che sia stato questo, perché poi è un fenomeno che coinvolge tutta la Germania, quello dell'aumento esponenziale degli affitti. È un paese, diciamo, che ha un forte numero di persone immigrate che vengono dall'estero, quindi che da un lato cresce per il proprio crescere della natalità, si fanno figli in maniera anche questa enorme, io non ho mai visto così tanti bambini come nelle strade tedesche, e nello stesso tempo c'è un forte aumento della popolazione straniera, tantissima europea, sono comunità fortissime di europei in tutta la Germania. Questo porta semmai all'aumento degli affitti, perché la richiesta comunque è sempre molto più alta di quella che è invece l'offerta di appartamenti. Ci sono città in cui trovare un appartamento in affitto è un'attività che richiede mesi e mesi, anche perché le garanzie poi che vengono chieste per poter affittare un appartamento sono molto alte. Quindi credo che Airbnb abbia inciso in una maniera abbastanza piccola rispetto a quello che è invece un più grosso problema dell'abitare. A Berlino mancano decine di migliaia di appartamenti rispetto alla gente che li ha lì cerca. Poi qui è molto frequente questo fatto di vivere insieme nelle case condivise, soprattutto le persone più giovani vivono in appartamenti condivisi che sono un po' diversi dalle nostre stanze in affitto, devo dire, qui è proprio una cosa codificata e che funziona tra le altre cose benissimo.